La manifestazione del 4 dicembre nasce, diciamo, da un'esigenza che da almeno un anno si era posta come esigenza forte. Noi come Comitato Immigrati abbiamo scritto una lettera nella quale chiedevamo al movimento, dopo il 31 gennaio, di costruire insieme un momento speciale, particolare sulla questione dei migranti, perché spesso a volte dopo la grande manifestazione che ci fu nel 2001, prima dell'approvazione della legge Bossi-Fini, non c'è stato un momento diciamo grande sulla questione dell'immigrazione e magari ci sono state delle manifestazioni nelle quali rientrava l'argomento immigrazione, però a noi sembrava che comunque dovevamo dare un peso forte alla questione dell'immigrazione, visto comunque il peggioramento delle condizioni di vita con l'approvazione della legge Bossi-Fini. L'obiettivo era quello di fare una manifestazione ampia e con il maggior arco possibile di forze su dei contenuti abbastanza chiari. Uno sicuramente, ed è una delle cose più importanti che caratterizzerà la manifestazione del 4 dicembre, è il fatto di non solo dire un no e chiedere l'abrogazione della legge Bossi-Fini, ma anche il segnare nettamente una discontinuità con quello che è stata anche la legge Turco-Napolitano, che in diversi consideriamo è stato un terreno di coltivo, diciamo, che poi ha dato vita a quello che è stato la Bossi-Fini, con i peggioramenti che sicuramente ha avuto la legge Bossi-Fini, per cui uno degli elementi fondamentali era quello. Poi a questo si è aggiunto anche negli ultimi due mesi il problema dei permessi di soggiorno, i rinnovi e l'attesa da mesi e mesi che molti immigrati dobbiamo vivere, e quindi anche questo è un altro contenuto fondamentale. Poi una questione anche fondamentale rispetto ai contenuti del 4 è la richiesta di rompere completamente il legame che c'è tra il contratto di lavoro e il permesso di soggiorno, e in questo sicuramente c'è anche tutta una riflessione sul fatto che la legge Bossi-Fini e la legge 30 sono due facce, diciamo, di una stessa medaglia, e anche in contraddizione assoluta l'una con l'altra, che però comunque regolamentano, diciamo, il mercato del lavoro.